Componimento 107° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Non veggio ove scampar mi possa omai. Sì lunga guerra i begli occhi mi fanno. Chi temo lasso, nol soverchio affanno, distrugga il cor che triegua non ha mai. Fuggir vorrei, ma gli amorosi rai che dì e notte nella mente stanno, risplendon sì ch'al quinto decimo anno, m'abbaglian più che il primo giorno assai. E l'imagine lor son sì cosparte che volver non mi posso, ov'io non veggia, o quella o simil indi accesa luce. Solo d'un lauro tal selva verdeggia che il mio avversario con mirabil arte vago fra i rami ovunque vuol m'adduce. Fine del componimento.